Il neoliberismo è una manifestazione fortissima del modello egoico. Io, io, io. E questo è bene per tutti, perché nel mondo degli affari, il precursore, lo trovate nel Settecento, un certo Bernard Mandeville, il quale dice: oggi con l'economia abbiamo capito che l'egoismo non è più un vizio, ma è una virtù. Quindi quello che era considerato un vizio privato, oggi una pubblica virtù. E perché? Perché se io veramente come uomo d'affari seguo i miei interessi fino in fondo e cerco qui, io divento una persona che produce ricchezza. Obiezione. Eh sì, ma la fai a scapito mio? No, perché anche tu come uomo d'affari cerchi di massimizzare i tuoi interessi. E quindi? E quindi il passaggio è, e poi interessi naturalmente trovano un loro equilibrio. E questa cosa viene chiamata mano invisibile del mercato, la mano invisibile di Smith, Adam Smith. La mano invisibile è quella che fa sì che tu ti comporti da stronzo, lui si comporta da stronzo, tu ti comporti da stronzo, cerchi di arricchirti più che vuoi, ma c'è sta mano invisibile divina che viene giù e fa sì che, siccome tu più di tanto non puoi andare perché c'è lui che ti ferma, alla fine tutto questo genera un'economia florida e questo genera la ricchezza delle nazioni. Poi viene detto da questo tipo di pensiero che già nasce nel Settecento. D'altra parte, se le persone fossero virtuose, cosa succederebbe dell'economia? Cadrebbe giù, perché la persona virtuosa non si mette a battagliare per aumentare, si accontenta di quello che ha. Quindi l'unica cosa che potremmo ottenere è un pauperismo diffuso. Quindi volete il benessere e, santo Dio, diventate egoisti, santo cielo, anche se tu hai una tendenza un po' tenera, alza il sedere da quella seggiola, perché fai così, fai anche il mio bene e il suo. Quindi finalmente abbiamo sdoganato l'egoismo umano. Ecco, questo lo dovete sapere, come mai siamo conciati in questa maniera. E perché oggi è difficilissimo creare un gruppo sinergico. Perché questi semi sono 250 anni che sono pompati dentro. E quindi 250 anni di lavoro. Negli ultimi 30 anni sono semplicemente un po' perfezionati. E hanno usato tutte le tecnologie del marketing, con i migliori professionisti. Qualcuno sostiene che la maggioranza degli psicologi lavora per il business, cioè per la pubblicità, la maggioranza assoluta. E la pubblicità è la seconda industria del mondo, mi viene detto. La prima è quella bellica. Sia l'industria bellica che l'industria pubblicitaria, da questo punto di vista, sono espressione tipica dell'ego.